Savonarola, il frate che spaccò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, quando i dotti del cui tempo inframmezzavano all'italiano parole latine perché, secondo loro, l'italiano era alquanto inadatto ad esprimere i più alti concetti, e lette da me, quando i dotti del mio tempo inframmezzano all'italiano parole inglesi perché, secondo loro, l'inglese è alquanto adatto ad esprimere i più bassi concetti. D'altra parte, homo longus raro sapiens, e a chi piace il bere parla sempre di vino. Serio. Capitolo 20. Piagnoni all'arrabbiata. Riprendendo il filo della storia, noi torniamo ai principi dell'anno 1495 e rintracciamo i semi di quelle discordie cittadine che, sebbene non ancora visibili, dovevano pure germogliare più tardi e far rinascere le parti in Firenze. Invero allora sembrava non esservi che una sola opinione, un solo partito, quello cioè che chiamavano del frate e dei frateschi. Chi però lo avesse riguardato un poco da vicino, subito vi avrebbe scorto una gradazione di opinioni assai diverse. Vi erano dapprima quelli che, sebbene amassero il governo popolare, non avevano alcuna simpatia né per i frati in genere né per il Savonarola in particolare. Costoro erano pochi di numero e male riuniti insieme. Vedevano d'altronde che il frate conduceva le cose in favore di quella libertà che essi amavano, onde nei consigli solevano votare in favore di lui e dei suoi seguaci, e per questo loro carattere quasi inoffensivo ebbero il nome di Bianchi, mentre quello di Bici veniva dato a un numero assai maggiore di cittadini, meglio uniti fra loro e assai più pericolosi. Erano questi i partigiani dei Medici che, avendo avuto il perdono generale per opera del Savonarola, s'erano in apparenza uniti a lui e si dicevano amici del governo popolare, ma nel fatto tenevano fra loro segreti colloqui e stavano in corrispondenza continua con Piero dei Medici, di cui desideravano ardentemente il ritorno. Sebbene questi loro maneggi segreti non dovessero tardar molto a venire alla luce, restavano pure sul principio nascosti e la Repubblica si covò lungamente una serpe nel seno. I Bici infatti tanto più erano pericolosi in quanto lavoravano sott'acqua e si valevano della generosità verso di loro usata dal Savonarola e della soverchia buona fede dei suoi seguaci per più facilmente rovinare la patria. I buoni popolani, tutti pieni delle prediche del frate, tutti contenti del perdono che avevano concesso e della libertà che avevano ottenuta, non sognavano neppure quei tenebrosi maneggi, quelle trame segrete, e quando il Savonarola li avvertiva dal Pergamo che stessero desti, perché c'è chi lavora contro alla libertà e cerca di fare tiranno, quasi pensavano che egli esagerasse per soverchio zelo del bene comune, e andavano ripetendo che ormai in Firenze non c'erano più amici dei Medici. Il Partito Popolare teneva l'occhio ad altri nemici più scoperti, i partigiani dello Stato Stretto. Costoro erano uomini di ricche famiglie e di molta esperienza per essere stati dai Medici adoperati nelle faccende di Stato, avevano amicizie e relazioni di importanza nella corte di Roma, ma soprattutto a Milano, donde il Moro, che odiava cordialmente la Repubblica e Piero dei Medici, li favoriva con ogni aiuto. Essi avrebbero voluto stringere tutto il governo nelle loro mani e fondare una specie di Repubblica aristocratica come al tempo degli Albizi. Odiavano perciò fieramente i Medicei che, lungi dal perdonare come aveva fatto il Savonarola, avrebbero voluto perseguitarli con gli esili, le confische e le condanne a morte. Odiavano tutti gli amici dal governo popolare, ma contro al frate, che consideravano solo autore della loro disfatta, e contro i suoi seguaci, che per disprezzo chiamavano piagnoni, erano davvero furibondi, e per queste ragioni furono chiamati gli arrabbiati. Avevano infatti tutto quell'antico e irrequieto spirito di parte che sembrava essere naturale a Firenze e che il Savonarola solamente aveva saputo frenare, onde ne veniva da loro tanto più odiato. Avrebbero voluto mettersi a qualche cimento, venire a qualche fatto risoluto, ma si trovavano a ciò ancora troppo deboli e pochi di numero. Ed invero, dopo che fu vinta la nuova Costituzione, la condizione degli arrabbiati era divenuta difficile assai. Combattere il governo popolare non potevano in alcuna maniera, perché avrebbero avuto contro di loro i Bianchi, i Piagnoni e più di tutti ancora i Bici, i quali sapevano che in un governo di arrabbiati non c'era per loro né perdono né speranza. In tale stato di cose pensarono anche gli arrabbiati di mostrarsi amici o almeno tolleranti del governo popolare e concentrare tutto il loro odio contro al Savonarola, che sapevano esserne l'anima e il sostegno. Cercavano quindi argomento continuo di ridicolo nelle sue visioni e profezie. Dicevano non essere ufficio di frate il mescolarsi di Stato, chiamavano le sue accuse contro la corte di Roma enormi e scandalose. Speravano in questo modo allontanare i Bianchi e i Bici dal Savonarola e dai suoi seguaci, e combattendo un uomo aprirsi la via a combattere un partito. Cominciarono dunque comunque la loro guerra sin dal principio dell'anno 1495, e quando i venti accoppiatori, dopo molta discordia, elessero a gonfaloniere Messer Filippo Corbizzi, uomo inetto a governare, poco amico del popolo e punto del Savonarola, già gli arrabbiati si accostarono a lui e lo trovarono docile strumento delle loro voglie. Il Savonarola intanto continuava la sua predicazione, adoperandosi a conciliare gli animi, a calmare e spegnere le parti. Ora discorreva della pace universale, ora dimostrava i vantaggi del Consiglio Maggiore. In questo modo, fra un indescrivibile entusiasmo del popolo, nel gennaio 95 lo troviamo di nuovo sul Pergamo a fare le prediche sopra i salmi, continuandole per tutte le feste che precedettero la Quaresima. Fra queste prediche sopra i salmi merita di essere particolarmente considerata una che fu fatta il giorno 13 gennaio e si chiamò Predica della Rinnovazione. Il Savonarola, pigliando allora per testo quelle famose parole da lui udite nelle sue visioni, «Ecce gladius domini super terram cito et velociter», esponeva tutte le sue idee intorno alla rinnovazione. Incominciava col dire che le cose future e contingenti sono note solamente a Dio, onde l'astrologia, che pretende conoscere il futuro per mezzo degli astri, è falsa, perché contraria alle regole della fede e ai principi delle scienze. Dopo queste generali premesse viene a discorrere la necessità del flagello e della rinnovazione. Espone dapprima le ragioni naturali, che sono l'oppressione degli eletti, l'ostinazione dei peccatori, il desiderio dei buoni e via discorrendo sino all'ultima, che è l'opinione universale. Tu lo vedi? Ognuno pare che annunzi il flagello e la tribolazione. Tu lo vedi? Ad ognuno sembra giusto che venga la punizione di tante iniquità. Rammenta l'abate Gioacchino, il quale anch'egli predisse la rinnovazione per questo tempo, che il Savonarola porta innanzi un gran numero di parabole che servono tutte a dimostrare la grande probabilità del flagello. Ripete mille distinzioni sulla diversità delle visioni, racconta finalmente le sue. Si restrinse a descrivere principalmente quella della spada che si avvicina alla terra e quella delle due diverse croci che vide sorgere sopra Roma e sopra Gerusalemme. Niuno potrebbe mai dire con quale accento, con quale ardore egli descrivesse queste sue immaginazioni, con quanta fede le desse per visioni celesti. Egli ripeteva le parole che aveva udite pronunziare nel cielo da esseri invisibili. La sua voce risuonava grave e solenne sotto le arcate del tempio, scendeva come una divina manifestazione su quel popolo estatico che fremeva di terrore, di maraviglia e di letto nello stesso tempo. Tutti gli uomini erano allora eccessivamente vaghi delle cose soprannaturali. L'uditorio e l'oratore si scambiavano quindi uno sguardo quasi magnetico, in cui non si potrebbe appieno distinguere chi dominava e chi era dominato. Si esaltavano a vicenda e venivano in uno stato di febbrile eccitamento che noi non potremmo facilmente né descrivere né comprendere. E così, procedendo oltre, concludeva: tu lo vedi adunque che la scrittura e la rivelazione, la ragione naturale, il consenso universale ti annunziano che il flagello è vicino. O Italia, o principi, o prelati della Chiesa, l'ira di Dio è sopra di voi e non avete rimedio alcuno se non convertirvi al Signore. O Firenze, o Italia, per i vostri peccati sono venute le avversità. Fate penitenza mentre che la spada non è fuori dalla guaina, mentre che essa non è ancora insanguinata, altrimenti non basterà né potenza, né sapienza, né forza. Questa predica fu subito stampata e corse tutta Italia, diffusa dagli amici e dai nemici del Savonarola. Gli uni volevano far conoscere la sua eloquenza, spargere la sua dottrina. Volevano gli altri mostrare la sua audacia, irritare contro di lui i principi italiani ed il Papa. Ed essa fu nelle mani degli arrabbiati un assai utile documento per muovere lo sdegno del Borgia. Riuscirono infatti, verso la fine di quello stesso mese di gennaio, a far venire da Roma un ordine che imponeva al Savonarola di andare a predicare la Quaresima in Lucca. Né vera cosa che non sperasse di poter fare con una signoria amica e col frate lontano. Se però la signoria, a causa del confaloniere Corbizzi, era stata avversa al frate, i 10, cioè il governo, si erano invece mostrati favorevolissimi. Sapendo ad essere sostenuti dalla opinione di tutto il popolo, scrissero a Roma pregando istantemente il Santo Padre perché volesse concedere al Savonarola di predicare la Quaresima in Firenze, nonostante l'ordine ricevuto di andare a Lucca. La città intera s'era poi commossa all'annunzio che il frate partiva. Molti già tenevano per ispacciato il governo popolare e lettere d'ogni sorta arrivavano a Roma sollecitando dal Papa un una revoca dell'ordine dato. Il Borgia veramente non aveva ancora alcuna grave cagione di odio contro il Savonarola, delle sue accuse contro il malcostume, delle sue visioni e predizioni, poco allora sapeva e meno si curava. Il re Carlo, d'altronde, amico del frate dei fiorentini, era nel regno di Napoli nella maggiore prosperità della sua fortuna e il Papa non voleva farselo nemico. Per tutte queste ragioni si lasciò assai facilmente indurre a consentire al desiderio dei fiorentini e, revocato il breve, permise al Savonarola di predicare la Quaresima in Firenze. E il Savonarola si pose subito a predicarla. Prese per soggetto il libro di Giobbe, quasi ad indicare che a lui conveniva far prova di pazienza, e si astenne per quanto potette dal discorrere di Stato, onde non dare nuovo appiglio ai suoi nemici. V'era da fare un'altra riforma non meno utile, non meno necessaria della politica, la riforma dei costumi, e a questa egli si mise con tutto l'animo.